si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati. L'appuntamento della tarda mattinata su Radio 24 con le nostre storie virtuose. Insomma, cerchiamo di invertire il trend della settimana che ci lascia un po' scoraggiati con le cattive notizie della cronaca. Oggi dal Festival dell'Economia nella meravigliosa, come si dice, cornice di Trento. Insomma, c'è il sole, c'è la gente nelle piazzette che va in giro cercando conferenze, tavole rotonde, workshop, cercando di capire un po' da che parte va il mondo. E anche noi oggi cercheremo di fare nel nostro piccolo qualche ragionamento di economia, insomma, sperando che non ci ascoltino i premi Nobel, economisti, grandi economisti che sono qua a ragionare di cose più importanti, più grandi, perché insomma molti, quasi tutti continuano a parlare di crescita, il PIL, la produzione, bisogna crescere per superare la crisi. Insomma, noi vogliamo chiedervi anche oggi a voi cari ascoltatori, 800 24 00 24, non è forse il caso di cambiare rotta? Insomma, se fai quello che hai sempre fatto otterrai quello che hai sempre ottenuto. Un'economia oggi che non produce occupazione, non dà lavoro, non funziona, e quindi forse dobbiamo cambiare strada. Non sarà che invece della crescita dobbiamo seguire sentieri di decrescita, un'economia con meno consumi inutili, con meno sprechi, un'economia più sostenibile? Oggi tra l'altro siamo in buona compagnia, perché in effetti tra i relatori del Festival dell'Economia di Trento c'è anche Serge Latouche, che è proprio il teorico della decrescita, una cosa che sembrava una cosa da matti fino a qualche anno fa, adesso invece forse no. Questo vi vogliamo chiedere, 800 24 00 24, possiamo dire benedetta sia questa crisi che ci fa riscoprire delle cose che sembravano perdute? Insomma, noi in questi mesi si può fare di segnali, ne abbiamo raccolti tanti, dal baratto dove le utilità si scambiano senza che ci sia una spesa di denaro, all'autoproduzione di molte cose in casa, dall'alimentazione ai vestiti, alle imprese low profit che non guardano al presente solamente ma guardano anche al futuro. Magari qualcuno ci sta ascoltando, ha perso il lavoro, ha chiuso l'attività commerciale e dice: ma questo è matto che ci parla di decrescita. Chiamateci 800 24 00 24, oppure invece voi nella crisi avete trovato spunti per comportamenti nuovi, per comportamenti diversi. Ma iniziamo con qualche segnalazione della settimana. Il miracolo delle tasse che si abbassano accade a Caserta, dove grazie all'aumento della raccolta differenziata, che è salita dal 24,8 al 31,5 in un anno, diminuisce la TARSU, quindi i cittadini pagheranno meno tasse, e finalmente accade. Una buona notizia per le mamme. Direttamente dall'Apple Store si può scaricare l'applicazione iMamma, una invenzione di un siciliano che ha ricevuto grande apprezzamento dalle mamme, 8500 download nel giro di qualche settimana. Insomma, ci sono notizie su ogni settimana di gravidanza, il calcolo sulla data del parto, l'agenda degli esami da fare, tanti consigli su quello che si deve fare e non si deve fare in gravidanza. iMamma. Un'altra notizia curiosa da Torino, l'abitazione che fu del filosofo Norberto Bobbio, che avrebbe potuto sicuramente essere qua tra di noi al Festival dell'Economia di Trento per dire la sua, diventerà un ostello per ricercatori e borsisti universitari, si chiamerà il Collegio della Mitezza, insomma la casa di Norberto Bobbio a Torino, che diventa un bed and breakfast. L'ultima notizia, l'ultima segnalazione riguarda il terremoto dell'Emilia. Hashtag Santiago non molla è su Twitter, nato alle 4:05 di domenica 20 maggio. I giovani di Sant'Agostino, paese colpito dal terremoto, chiamano così il loro paese Santiago, e da subito si sono mobilitati per cercare di fare qualcosa, per rimettere in piedi il loro paese. Oggi voi potete abbracciare questa storia andando sul sito di Shiny Note, un social network su basi etiche, potete fare una donazione per Santiago non molla, oppure su Twitter dare un incoraggiamento ai ragazzi di Sant'Agostino. 800 24 00 24, tra poco vi vogliamo in diretta, ma dicevamo, oggi parliamo segnali di decrescita. Sono Leonardo da Foggia. Se portassero la benzina a 100 euro al litro miglioreremmo molto l'ambiente, la gente si abituerebbe ad andare di più a piedi o in bicicletta. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. We're canzone di Bruce Springsteen, insomma, nota per chi segue il boss, la canzone dedicata ai manager di Wall Street, Easy Money, l'ultimo album Wrecking Ball di Bruce Springsteen è proprio dedicato alla crisi economica. Lui se la prende molto con gli speculatori finanzieri, i banchieri, insomma, denaro facile, quello che deriva dai super bonus, a volte, ahimè, anche dalle truffe ai risparmiatori a Wall Street. Insomma, abbiamo scelto questa canzone visto che oggi vogliamo parlare della crisi, vogliamo capire se si può fare un'economia diversa, più umana, come volete dire, più reale, meno finanziaria. Il primo ospite di oggi in studio con noi, qui dal Festival dell'Economia di Trento, l'abbiamo conosciuto qualche settimana fa e lo ritroviamo oggi come testimonial di un'iniziativa che potrebbe davvero entrare nel cuore insomma, di questa crisi. Vi dico solo che parliamo di banche, e già questo è abbastanza indicativo, ma di una banca diversa che non chiede e non riconosce nemmeno interessi, una banca cooperativa, una banca popolare, una banca in famiglia. Enrico Longo, buongiorno, presidente del comitato promotore di IAC Italia. Allora, spiegaci in che cosa consiste questo progetto, come è nato alcuni anni fa e come adesso, insomma, siete, non dico alle strette finali, ma insomma cercate di realizzare una banca diversa in Italia. Buongiorno a tutti. Sì, il progetto è nato qualche anno fa, tre anni e mezzo fa, nel 2008, quando grazie a una trasmissione televisiva siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di questa realtà in un altro... Possiamo anche dire il nome della trasmissione, perché non c'è nulla di male. Perfetto. Anzi, Report. Emiliana Campanelli, tra l'altro, è una delle gigantografie che c'è qua fuori. Non so se è stata ospite anche a questa edizione, insomma. Quindi possiamo dirlo. Possiamo dirlo e la ringraziamo ancora. E ringraziamo anche il giornalista che fece quel servizio, Giorgio Simonetti. Siamo venuti a conoscenza di questa realtà in Svezia, esistente da tanti anni, e abbiamo pensato che potevamo e anzi dovevamo replicarla anche in Italia. Da lì è nata l'associazione culturale IAC Banche, che esiste ancora ed esisterà sempre finché esisterà il progetto. E solamente sei mesi fa, alcuni di noi hanno deciso di dare un po' una stretta finale, quindi, o meglio, cominciare a dare una stretta finale, quindi mettere in piedi il comitato promotore, quello strumento tecnico che poi serve per arrivare alla fondazione della banca. Questo è stato un po' il nostro passaggio. Siamo stati tante volte in Svezia a fare le scuole di formazione con la IAC Medelsbank, la IAC Bank svedese, e oggi, come dire, ci sentiamo internamente pronti e stiamo lavorando perché anche l'esterno lo sia e lo diventi. Ecco, dobbiamo sempre imparare dal nord Europa, no? C'è sempre questo mito che le cose buone arrivano da paesi scandinavi, dalla Svezia in questo caso, però è una realtà. Come funziona questa banca in Svezia da più di 10 anni e come potrebbe funzionare in Italia quando tutte le autorizzazioni saranno concesse? Ci vorrà del tempo, ma insomma è giusto cominciare a parlarne fin d'ora. Certo, una battuta. Sì, noi alle volte andiamo a prendere le realtà dagli altri paesi quando ce l'abbiamo in casa. Ricordiamo che le banche, come dicevamo l'altra volta, sono nate in questo paese e alcune realtà di banca, come la intende la IAC, sono nate in questo paese, poi forse ce lo siamo dimenticato. Che cos'è la IAC? La IAC è una banca cooperativa, è una banca gestita da soci, in cui solamente i soci possono usufruire dei servizi, che sono semplici, sono solamente depositare i propri risparmi e chiedere finanziamenti. Quindi è una banca che non opera in nessun modo nei mercati finanziari, è completamente scollegata dalla finanza, agisce solo nell'economia reale, finanzia solo l'economia reale, non ha obiettivi di profitto, quindi ai soci viene chiesto di pagare delle commissioni, delle quote annuali che hanno l'unico obiettivo di coprire i costi della gestione e dello sviluppo. E poi una cosa molto importante, al di là della convenienza o delle caratteristiche tecniche, è che è una banca che è supportata da un'associazione. Nasce da un'associazione ed è supportata da un'associazione che crea rete tra i cittadini e si occupa costantemente di fare educazione e formazione. Insomma, una cosa, capite ascoltatori, è completamente diversa rispetto a tutte le altre banche. Ma voi, come vi sentite? Cioè, voglio dire, come ci si sente a proporre una banca dove manca l'elemento fondamentale per come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, cioè quello dell'interesse? Cioè, pensate di essere un po' matti oppure ci credete davvero? Sì, ci credete, perché se no non sareste qua, però... Assolutamente, e forse ci sentiamo anche un po' matti. Probabilmente il problema è che ci hanno fatto credere che quello è un elemento imprescindibile, così come ci hanno fatto credere che un elemento imprescindibile dell'economia sia la crescita, per agganciarci a quello che dicevamo, che si diceva prima. E forse sì, anche in questo caso, anche nel sistema bancario, è necessario un cambio di paradigma profondo e anche di credenze nelle teste delle persone, assolutamente. Benissimo, grazie per ora. Enrico Longo, presidente del comitato promotore Banca IAC Italia. Torniamo tra pochissimo. Si può fare dal Festival dell'Economia di Trento. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati, si può fare dal Festival dell'Economia di Trento, cari ascoltatori, tra poco vogliamo anche i vostri interventi in diretta. Il tema di oggi è sentieri di crescita o di decrescita, e la provocazione è questa: Benedetta, la crisi che ci sta insegnando come uscire dalla crisi, però in modo sostenibile, con dei modi possibilmente diversi rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Benedetta la crisi, 800 24 00 24. Se la notte fa rumore, sogna l'alba che verrà. Qui comincia la salita, tu non chiederti perché. Dà più forza alla tua vita con la forza che c'è in te. Non c'è vita da buttare per la fine di un amore. C'è più spazio nel tuo cuore per l'amore che verrà. È il concetto di spreco che vogliamo capire, insomma è un peccato sprecare e buttare via la vita, dice alle giovani innamorate Gigi D'Alessio, solo perché un amore è finito. E noi diciamo invece, è un peccato, non si può buttare via nessuna risorsa naturale dell'ambiente. E uno degli sprechi più insensati che ancora abbiamo di fronte a noi è quello dei sacchetti monouso per fare la spesa, insomma sacchetti che inquinano, anche se adesso da qualche mese ce ne siamo accorti tutti, stiamo passando ai sacchetti biodegradabili, ma insomma resta questo problema dei sacchetti monouso. E allora abbiamo convocato Silvia Ricci, che è la coordinatrice del progetto Porta la Sporta per l'Associazione dei Comuni Virtuosi, che ha lanciato un'ultima iniziativa che è Sfida all'Ultima Sporta. Silvia Ricci, buongiorno. Buongiorno. Di che si tratta? Volete eliminare dalla faccia della terra i sacchetti monouso? Come? Diciamo che vogliamo far ragionare i cittadini su come possono contribuire a ridurre l'impatto della loro impronta ecologica. Il sacchetto è uno, diciamo, delle prime azioni che bisogna affrontare. L'iniziativa Sfida all'Ultima Sporta ed è un'iniziativa che è regolata da un bando scaricabile dal sito del www.portalasporta.it. È una competizione riservata a comuni che abbiano raggiunto il 60% di raccolta differenziata nel 2011 e che abbiano una popolazione compresa tra gli 8.000 e i 16.000 abitanti. I comuni che presenteranno la loro candidatura si renderanno disponibili per 6 mesi a sensibilizzare i loro cittadini a ridurre il consumo pro capite dei sacchetti monouso di qualunque tipo. In questa avventura saranno complici i supermercati e i negozi locali, che si prenderanno il compito di prendere nota di quanti sacchetti sono stati risparmiati, e cioè quanti acquisti i cittadini faranno senza prendere sacchetto monouso. La parte più interessante è che il premio di 20.000 euro offerto da 3 sponsor andrà a beneficio della scuola locale del comune vincitore, che potrà quindi impiegarlo per o lavori urgenti oppure per iniziative che vadano di nuovo a ridurre il consumo usegetta, come ad esempio ritornare a una gestione con stoviglie riutilizzabili della mensa locale. Ecco, Silvia Ricci, è anche un discorso economico in qualche modo, cioè alla lunga si può quantificare un risparmio economico per le tasche di chi va a fare la spesa munito del sacchetto di stoffa, insomma della rete o di quant'altro che sia riutilizzabile, perché tecnicamente sono soldi in meno che spendono i grandi magazzini, i supermercati, che potrebbero poi ricadere in sconti per la clientela. Si può dire che risparmio e ambiente possono marciare di pari passo? Assolutamente, perché per i cittadini innanzitutto si tratta di risparmiare sul costo dei sacchetti, che può essere una cifra variabile sui 30-40 euro annuali, ma soprattutto riducendo e prevenendo la produzione di rifiuti, si può andare a lavorare su un altro costo importante, che è quello della nostra della bolletta dei rifiuti che il nostro comune paga ogni anno, e l'importo che noi paghiamo dipende anche da quanto è stato il peso totale dei rifiuti indifferenziati che noi abbiamo prodotto. Quindi va assolutamente di pari passo, un risparmio per l'ambiente e per le nostre tasche, soprattutto andiamo a costruire un ambiente vivibile per le future generazioni. Silvia Ricci, promotrice tra gli altri dell'iniziativa Sfida all'ultima sporta, prima di ricordare ancora come si fa a partecipare, noi oggi qua si può fare, siamo al Festival dell'Economia di Trento, ragioniamo anche sulla crisi, sulla crescita, sulla decrescita, si può dire che la crisi è una spinta anche per affrontare temi ambientali come per esempio questo dei sacchetti monouso? Assolutamente sì, sarebbe stato bello che ci fossimo arrivati prima e magari 20 anni fa, però come dire, non è mai troppo tardi, quindi mai. Assolutamente una conversione verso la sostenibilità di tutta l'economia, dei nostri comportamenti è l'unica via d'uscita che abbiamo, ce lo chiede la perché comunità insomma europea. Diciamolo che l'ambiente, il rispetto dell'ambiente non è solo un vezzo, è proprio una di quelle condizioni che ci consente di avere uno sviluppo economico che possa durare, che sia sostenibile. Ricordiamo come si fa ad aderire per i comuni al bando per questa iniziativa Sfida all'ultima sporta e poi ci salutiamo. Sì, certo, allora i comuni, ma anche i cittadini che abitano nei comuni che hanno i requisiti, possono venire sul sito a scaricare il bando. C'è tempo fino al 30 di settembre, ma bisogna fare presto perché verranno accettati ovviamente solo i primi 20 comuni. Vorremmo farlo con più comuni, ma questa è la prima edizione. Per la prossima speriamo di poterlo replicare ancora. Benissimo, grazie. Allora Sfida all'ultima sporta, l'iniziativa che abbiamo presentato quest'oggi qua si può fare, e allora risparmio e ambiente marciano di pari passo, e in questo caso i consigli del Movimento per la Decrescita Felice ci portano a Porto Gruaro. Sulla questione della crescita, per crescere di più, per stimolare la crescita, nuove occasioni di crescita, la crescita. Siamo ossessionati dalla crescita economica, eppure per vivere bene non sempre serve spendere di più. Scopri insieme a noi la decrescita felice. In Italia tutti vorrebbero un posto al sole. Ebbene, noi lo abbiamo trovato. È Porto Gruaro, località di gran classe. Classe A, per l'esattezza. Ci racconta tutto Hermes da Porto Gruaro. Finalmente qualcosa di nuovo sotto il sole. Sono Hermes Drigo, ho fatto il consigliere comunale nel comune di Porto Gruaro e con il comune di Porto Gruaro abbiamo messo in piedi un progetto che si chiama Porto Gruaro Città Solare, che ha come scopo quello di vivere bene consumando meno. Nel 2004 abbiamo detto no a una centrale a turbogas, ma contemporaneamente abbiamo detto sì a un piano per l'efficienza energetica degli immobili. Dal 2005 che è partito questo progetto ad oggi noi abbiamo risparmiato circa il 10% di energia con l'efficienza energetica, che equivale circa a 50.000 euro. C'è dunque una soluzione, una grande opportunità per le città, per vivere bene bisogna consumare meno energia, bisogna avere meno traffico, bisogna consumare meno suolo, bisogna produrre meno rifiuti e bisogna consumare meno acqua. Nel 2005 abbiamo fatto la valutazione energetica dei 33 edifici comunali, che è fondamentale questo per capire dove si può operare, per tappare i buchi degli edifici. Abbiamo scoperto di avere edifici che purtroppo consumano tanto, mediamente intorno ai 220-230 kWh metro quadro, lavoriamo per portare a 50 kWh metro quadro. Con il contratto energia invece siamo riusciti a risparmiare, siamo passati dai 4.900 circa megawatt di energia elettrica nel 2005 a 4.500 sempre megawatt nel 2010, con un risparmio del 10% di energia elettrica, e la stessa cosa l'abbiamo fatta con il riscaldamento, passando da 5.700 megawatt nel 2005 a 5.200 megawatt nel 2010. Porto Gruaro Città Solare è un progetto amministrativo, dunque è un progetto che funziona al di là delle scadenze elettorali, ed è un progetto che può andare bene per qualsiasi città, per qualsiasi livello amministrativo. Avete ascoltato La città solare. È la decrescita felice e si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare, ben ritrovati oggi in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, 800 24 00 24, cari ascoltatori, oggi vi vogliamo sentire sulla provocazione è questa, benedetta questa crisi economica, però lo dico a bassa voce perché non vorrei che mi sentisse qualche premio Nobel dell'economia che mi scomunica subito, perché finalmente si è aperto un cantiere, un dibattito, si discute su come uscirne e magari con un'economia più sostenibile, insomma i segnali non mancano, l'abbiamo detto dal baratto anche noi qua. Si può fare, abbiamo raccolto storie quest'anno, l'autoproduzione, la riscoperta dei lavori, di alcuni lavori che si erano persi, le imprese low profit. Prima di sentire gli ascoltatori, Enrico Longo del comitato promotore della futura banca IAC Italia, di cui abbiamo parlato all'inizio del programma, anche per voi la crisi è stata un po' un'opportunità, perché dal 2008, quando vi siete messi in marcia per questo progetto, già le banche erano un po' nel mirino di una serie di critiche, quindi la crisi è un'opportunità? Può esserlo. Sì, sicuramente. La parola crisi, tra l'altro, deriva da un ideogramma cinese che vuol dire proprio questo. Sicuramente questa crisi, questo tipo di crisi, comporterà anche per noi delle difficoltà, ma più di questo delle opportunità, perché crea la necessità, crea l'urgenza, crea l'esigenza di rivedere il modello in generale, un meccanismo in generale. Che si parli di crescita, che si parli di decrescita, di autoproduzione, sì, è assolutamente un'opportunità. Quali sono le differenze tra la vostra banca, la banca che voi volete costruire in Italia, per la quale state preparando la documentazione necessaria da portare poi alla Consob, perché ci saranno anche dei passaggi ufficiali, formali, con le autorità di vigilanza, rispetto ad altre realtà del credito, diciamo, alternative rispetto alle banche come le conosciamo noi? Si è parlato di banca etica o di cose come il micro credito, cos'è che vi differenzia per esempio da banca etica, che è un esempio già conosciuto, perché ci sono delle differenze anche nette. Certo, certamente. Intanto la prima differenza è che il modello IAC prevede di rivolgersi al 100% nei confronti dei soci, quindi per poter usufruire dei servizi di IAC, dei depositi, dei risparmi, bisogna essere soci, quindi in qualche modo contribuire prima alla nascita e poi alla gestione, non è pensabile non essere quindi non soci. Si può essere solo correntisti, diciamo, di questa banca, prendere o dare soldi, punto e basta. No, bisogna essere soci, far parte di un progetto e essere soci poi vuol dire anche mettere dei soldi, mettere una quota. Certamente. Avete un'idea di quanto sarà questa quota, per esempio? Sì, sarà una quota molto bassa, accessibile per tutti, insomma, insomma, poche centinaia di euro per iniziare, o forse anche meno, insomma, dipenderà molto, come dicevo già nella scorsa puntata, da quante persone aderiranno al progetto. Questa è la peculiarità di IAC: più si è e meno costa per ognuno. Come anche basse saranno le cifre che erogherete, perché questa è un'altra cosa che vi differenzia rispetto alle banche tradizionali, perché insomma l'esposizione non sarà mai di milioni di euro o di centinaia di migliaia di euro. Avete in mente anche lì un tetto per poter creare questo vincolo di fiducia, insomma, per finanziare piccoli progetti di imprese? Sì, non abbiamo in mente un tetto preciso, dipenderà anche qui da quanti risparmi e quante persone ci saranno. Sicuramente la peculiarità di IAC è quella di finanziare il più possibile dei soci, quindi distribuendo equamente tra tutti i soci che ne fanno richiesta, e non certamente finanziando grosse cifre a pochi. Altre differenze rispetto al sistema bancario è sicuramente l'assenza dell'interesse. L'assenza dell'interesse vuol dire proprio uscire dalle logiche, dai meccanismi dei tassi di interesse. Il fatto che non si rivolge alla finanza, ai mercati finanziari in nessun modo, che sia un soggetto che non persegue obiettivi di profitto ma di copertura dei costi, e poi ci tengo a dirlo, soprattutto tutta la parte di educazione finanziaria, di formazione sull'uso consapevole del denaro. E educazione finanziaria non come si intende spesso, cioè ti insegno a capire cosa sono i derivati, a capire cosa sono gli strumenti finanziari. No, educazione nel senso di riappropriarsi della propria gestione economica e finanziaria, di emanciparsi da un punto di vista economico. Andiamo agli ascoltatori, 800 24 0024, c'è De Anna, credo che si chiami così, da Prato, buongiorno. Salve, buongiorno. Pronto? Benedetta questa crisi. Sì, lei che ne pensa? Crisi, perché almeno smetteranno di costruire questi capannoni inutili che molte volte rimangono vuoti, deturpano e violentano il paesaggio di una bella Italia che sta scomparendo. Ma di quali capannoni, a quali capannoni si riferisce? Allora, forse in mente l'Emilia Romagna. Su come funghi lungo le autostrade e lungo dove ci sono quei pochi appezzamenti di terreno inutilizzato, che forse potrebbe anche essere utilizzato per un'agricoltura sostenibile, consapevole, insomma, perlomeno riappropriamoci anche di uno spazio verde che poi fa comunque bene anche alla vista e al cuore, insomma. Sì, va bene Deanna, e ricordiamoci che insomma ora i capannoni poi servono anche per produrre, magari cominciamo a costruirli che reggano, tra l'altro, e costruiamo solo quelli necessari, magari non costruiamone più, riutilizziamo, recuperiamo anche l'edilizia esistente. Questo sicuramente è uno dei concetti di una economia sostenibile di cui proviamo a parlare oggi qua dal Festival dell'Economia di Trento. Un altro ascoltatore, Roberto, che ci chiama da Biella, buongiorno. Buongiorno. Nessuno che reagisca male alla nostra provocazione, benedetta questa crisi, lei che ne pensa? Ma guardi, io per quello che posso aver intuito, stiamo andando verso una nuova guerra, tra virgolette, che è la guerra del cibo. Diciamo che chi ci sta pilotando sta comprando terreni in tutto il mondo, perché la guerra del futuro si combatterà su quello. E quindi noi piccole persone normali dobbiamo lottare contro questo predominio a cui andiamo incontro, nel senso che dobbiamo abituarci ad autoprodurci le cose personalmente, quindi il nostro piccolo pezzo di terra e coltivarci. Lei ha un piccolo pezzo di terra, per esempio? Io abito in una cascina ristrutturata con altre famiglie in cui abbiamo il nostro pezzo di orto. Quindi lei è al 100% in pieno in questo modello, diciamo, di recupero, di autoproduzione, anche di decrescita. E lei, insomma, consiglierebbe anche ad altri di seguire questa strada. Ma è la sua attività principale o anche un lavoro, suo lavoro? Io ho un lavoro e parallelamente porto avanti nel tempo libero questa soluzione, che comunque secondo me se viene sviluppata da tutti personalmente, tutti insieme possiamo, diciamo, costruire una piccola alternativa. Grazie Roberto da Biella, insomma una vera testimonianza, si può fare, non è facile, sicuramente si rinuncia forse a del tempo libero, poi ognuno fa le scelte che vuole, però la sua era una bella testimonianza. Grazie. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. A volte si dice anche questa canzone, no? Anche se non trovi le parole, non servono le parole, basta lo sguardo. E invece c'è chi è convinto proprio del contrario, che le parole sono fondamentali, sono necessarie, perché? Per promuovere il discorso, l'argomentazione, il dialogo, per capirsi. E insomma è un po' questo l'idea che c'è alla base di un progetto a Corigliano d'Otranto, siamo in Puglia, che sta predisponendo in questo comune uno sportello filosofico, e poi ci sarà anche un parco della filosofia. L'idea alla base è proprio quella che parlare, sfogarsi fa bene, un'idea un po' originale. Noi abbiamo convocato Graziella Lupo, consulente filosofica del progetto Salento che pensa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Un'iniziativa, mi viene a dire, di salute pubblica. Insomma, la correggo e parto dalla provocazione che lanciava prima. Lei dice bene. Del resto lei è professoressa, quindi mi corregga. Prego. Diceva prima con gli ospiti, benedetta questa crisi. Bene, la sfida è quella di scoprire la meraviglia anche in una condizione di crisi. E per meraviglia intendiamo l'atteggiamento proprio della filosofia. Quindi la sfida che è stata aperta a Corigliano d'Otranto è proprio quella di praticare e riscoprire la condizione della meraviglia, che non è proprio di una condizione positiva e quindi di diletto, di felicità, come si intende comunemente la condizione della meraviglia. La meraviglia è anche uno stato di sconcerto, di incomprensione davanti a qualcosa che non è veramente noto. Quindi la crisi probabilmente può essere anche scoperta e può essere sollecitazione a una forma nuova di meraviglia, quindi a un'indagine filosofica. Sì, mettiamo un po' a fuoco. Voi siete partiti, mi diceva, dal fatto che insomma ansie, paure, mancanze di punti di riferimento, la crisi popolano le nostre vite. E quindi tra i due estremi del non fare nulla, del chiudersi in sé, oppure del ricorrere alle cure dello psichiatra o dello psicologo, insomma, perché poi gli estremi sappiamo purtroppo sono anche questi. Voi invece proponete una strada intermedia, una strada da pari a pari, cioè si viene da voi a parlare, a sfogarsi. Guardi, più che una strada intermedia, mi permetta questo eccesso, è la strada che ha dei riferimenti alla strada maestra. Grecia antica. Sì, la strada maestra, insomma, è quella che poi in un certo momento distingue l'essere umano come essere pensante, e quindi è la strada. Non è la strada intermedia, ma è la strada che suggeriamo. Noi abbiamo avuto un momento di scelta che parte proprio da questo aspetto positivo, cioè intanto, come lei sa, nasce nel comune di Corigliano, quindi c'è la figura del sindaco, che anche lei ha da fiore, docente di filosofia, e quindi ha una particolare sensibilità e affezione all'atteggiamento filosofico. Quindi ci siamo interrogati su questo, cioè qual è la condizione attuale a partire dalla sua cittadina. Visto cambiare, che lei dico intanto cominciare a considerare i cittadini non più come lettori, non più come consumatori, come cittadini certamente, ma anche come compagni di viaggio. E questa è stata la prima. Ecco, ma quali sono le, visto che lei è consulente filosofica già da un po', insomma, ha lavorato in altri progetti, quali sono oggi i bisogni, le paure da cui si parte nel mondo del lavoro, nel mondo della famiglia, nel mondo della coppia? Quali sono le principali ansie a cui voi pensate di andare incontro e che i cittadini vi chiederanno di risolvere, di parlare, di discutere? Abbiamo una forma di comunicazione che oserei dire anche qui con una forma estrema, che utilizza l'espressione dello slogan, quindi tutti chiacchieriamo, parliamo di crisi, tutti inneggiamo una condizione di limite. In realtà in questa fase il primo limite che noi abbiamo individuato è proprio il limite della parola, cioè esprimere quello che si vive ed esprimerlo in una forma consapevole. Quindi mi sembra che anche i riferimenti che facevate prima nel corso del programma, cioè un uso consapevole della parola, e la parola serve anche a distinguere i tratti propri, la parola filosofica in questo caso, i tratti propri dell'epoca che stiamo vivendo. Quindi se la crisi ci costringe ad abitare il nostro spazio, il nostro tempo, con la minaccia del futuro, non più con la promessa del futuro, la nostra sfida intanto è quella di vivere il presente e cominciare a dare parola al presente. Che cosa chiedono principalmente, dice lei? Intanto è proprio la possibilità di comunicare, e c'è una forma anche di quasi di imbarazzo, di sconcerto, perché si scopre che è una pratica usuale quella della comunicazione, dell'utilizzo della parola, ma in una forma ragionata e consapevole è quello che crea sconcerto, ed è il lusso che proponiamo, utilizzando l'espressione del filosofo Benasayag, è il lusso che proponiamo nella città di Corigliano, e probabilmente è una chiave risolutiva rispetto alla crisi, cioè usciamo. Vi verremo a trovare, Graziella Lupo, quando inaugurerete anche il Parco della Filosofia, che è un altro progetto che all'interno di Salento Pensa avete in mente di realizzare da quelle parti. Grazie per essere stata con noi, non dobbiamo fermarci, c'è il traffico, poi ancora qualche notizia dal Festival dell'Economia di Trento. Grazie, grazie alla Lupo, Salento che Pensa, a tra poco, 800 24 00 24, forse anche lo spazio per un altro ascoltatore. Si può fare cronache da un paese migliore. Si può fare, ben ritrovati, 12:48 minuti, vogliamo sentire ancora un ascoltatore, 800 24 00 24, Pierpaolo da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, dunque sì, io benedirei la crisi in un certo senso, la stiamo soffrendo certamente, ma spero che ci porti come fatto positivo al ritorno alla lira. Io ho un fatto personale nei confronti dell'euro, in quanto prima dell'avvento avevo risparmi per poco più di 500 milioni che una volta si sono dimezzati. Sì, ma ancora meno, questo è un aspetto, ma soprattutto volevo dire un'altra cosa: i mezzi di informazione danno molta rilevanza all'aspetto, alla parte economica. Ogni telegiornale ad esempio riserva molto spazio alle borse, allo spread eccetera, ma io che frequento il mercatino rionale sento altre notizie. C'è la signora anziana che è pensionata con la casa di proprietà, prendeva 1.000 euro e viveva bene, ora non arriva, non dico alla terza, ma neanche alla seconda di settimana. Ecco, voglio dire, a questo spazio, a queste persone, che alla fine secondo me sono la maggioranza, l'informazione non dà peso. Credo che insomma bisognerebbe darglielo, ecco, questo per dare un po' di equilibrio, voglio dire, l'informazione. Lei ci ha provato adesso con il suo intervento. Pierpaolo, grazie, abbiamo ancora pochi minuti, vogliamo concludere tra l'altro con un ospite tra poco, perché lui sì, adesso lo sentirete, che può dire benedetta questa crisi. Prima che la terza rivoluzione industriale per l'esodo, il grande esodo, un esodo per noi giovani del futuro. Si può perdere il lavoro durante la crisi economica, però se ne può trovare anche uno migliore, e allora è quello che è accaduto al nostro prossimo ospite, che da esodato è diventato imprenditore, Massimiliano Veneziano, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Una storia rilanciata anche dai giornali locali, lei di dov'è esattamente? Allora, io risiedo a Limbiate, quindi periferia nord di Milano, e la nostra società ha sede legale a Varese e sede operativa in Lomazzo, provincia di Como. Ecco, ci racconti lei la sua vicenda da ex dirigente di un'azienda, lei era impiegata al settore degli acquisti, a quasi 50 anni a un certo punto non avevano più bisogno di lei, come capita purtroppo, ahimè, troppo spesso, e allora salta fuori un'idea, un progetto imprenditoriale, e lei riparte meglio di prima. Sì, certamente, infatti posso confermare. Due anni fa, purtroppo, come tanti della mia età mi hanno comunicato che c'era più bisogno del sottoscritto, e mi sono reinventato, anziché piangermi addosso, un qualcosa che potesse appagarmi. Io insieme a altre tre persone, un anno e mezzo fa circa, ecco, abbiamo messo insieme le nostre forze, sia fisiche ma anche economiche, nel far crescere e sviluppare il business che tutt'oggi ci vede, ecco, protagonisti nel campo dell'illuminazione a LED. Come gliel'hanno comunicato? Cioè, così giusto un particolare, che non avevano più bisogno di lei, nel corso di un consiglio di amministrazione. Allora, nel corso del consiglio di amministrazione mi hanno fatto partecipare in quella sede e mi hanno detto: signori, non abbiamo più bisogno di lei. Quindi da questo momento lei è licenziato e si deve trovare una nuova. Momenti, immagino, insomma, drammatici. Quante ore sono passate dal momento buio a quando invece lei ha visto la luce? Guardi, io devo essere sincero, per un aspetto anche caratteriale personale cerco di non piangermi addosso e reagì subito, cercando prima mentalmente e poi operativamente di capire quale fosse la mia strada. Ecco, e quindi ho incominciato un percorso che mi ha portato a quello che attualmente sto facendo. Senta, come ha fatto a mettere su questa impresa? Non abbiamo molto tempo, però insomma sì, sento che lei riesce ad avere il dono della sintesi. Aveva un capitale iniziale, perché di questi tempi lo sappiamo che il problema del credito delle banche, e noi ne abbiamo parlato anche qua, tra l'altro, con un ospite che è del comitato promotore di una nuova banca in Italia, che speriamo erogherà il credito più facilmente. Lei come ha fatto? Aveva un capitale di partenza oppure è riuscito a convincere la banca? Sì, siamo partiti con un capitale veramente molto minimo, aiuti dalle banche zero, e questo purtroppo è un aspetto negativo. E siccome anche per mia formazione credo molto al concetto di squadra, abbiamo appunto creato una piccola squadra di 4 persone dove ognuno di noi ha messo al servizio di Archesis tutte le varie competenze, quindi a livello di produzione, progettuale, tecnico, aspetto finanziario e commerciale che seguo io personalmente. E va bene, grazie. Allora, Massimiliano Veneziano, imprenditore milanese, avete sentito che è uscito brillantemente, scusate il gioco di parole, l'errore, da questa crisi. Siamo in chiusura, Enrico Longo, Yak Italia, lanciamo un ultimo appello, perché voi siete alcune centinaia, volete crescere per creare una banca nuova, diversa in Italia. Assolutamente sì, dobbiamo essere tanti per questo progetto. Non abbiamo dire alle spalle nessuna grande istituzione, nessuna grande impresa. Quindi o saremo tantissimi o questo progetto non si potrà realizzare. Grazie a tutti. Grazie a Enrico Longo. Chiudiamo ringraziando Margherita Ina, Gian Gabriele Lombardo per l'assistenza in redazione, Carmelo Laruscella, Filippo Aureggi in regia, per la scrittura del programma Andrea Piana, Franco Piantanida in redazione anche lui durante la settimana. La scorsa settimana avevamo chiuso con la segnalazione di un ascoltatore che lanciava una proposta a Radio 24, comizi. Di quella della proposta di fare appunto delle conferenze, comizi tramite la vostra Lado e poi si faccia la selezione. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.